Ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. 12:10 in questo minuto al nostro Watch, ben ritrovati con il consueto appuntamento con CRM Piredio e con Carta e Penna in studio Filippo Rosso alla console come sempre, il Raul Bova che durante l'arco della mattinata per questo programma ci coaudia con le telefonate, insomma si muove in regia. Un saluto particolare a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando in questo momento, non soltanto via radio ma anche con internet, potete anche vederci se volete, potete interagire con noi con Facebook oppure potete anche telefonarci al seguente numero 335 5637 251, per quanto attiene gli sms 0921 92 32 92 per telefonare e fare le vostre richieste, oppure contattateci cercando CRM Happy Radio oppure scriveteci su Facebook se non siamo già tra i vostri insomma amici, ci auguriamo di diventarlo prestissimo. Dunque, caldo torridissimo in questo momento, sfiorano i 40 gradi nelle città e fare attenzione soprattutto ai colpi di calore per gli anziani, i bambini, i soggetti che sono più esposti a questo rischio dei colpi di calore, quindi state il più possibile all'ombra, bevete quanto più acqua possibile e naturalmente non esponetevi assolutamente ai raggi del sole. Per quanto attiene invece chi in salute sta abbastanza bene, beh insomma se non avete da lavorare siete già in vacanza, buon mare, buon bagno e soprattutto buon refrigerio. Fino a venerdì questa afa è sparsa in tutta Italia, i punti più focali, più caldi li troviamo in Sardegna, li troviamo a Roma, li troviamo quindi nel Lazio e in Toscana dove si sfiorano appunto i 40-41 gradi. Argomento del giorno, abbiamo tre ospiti, dovremmo avere tre ospiti telefonici in diretta, tra cui il sindaco di Cefalù, poi dovrebbe essere Gisele Guarcello che è il presidente degli Amici per Bacco che ha organizzato e sta organizzando la sesta edizione di Paese di Vino. Capiremo cosa sta succedendo a Castelbuono, ci sono dei ritardi un po' anche pesanti sulla posa in opera della sesta edizione di Paese di Vino e poi, come tutti già sapete, l'ex sindaco di Castelbuono Mario Cicero e l'attuale, il nuovo assessore alla cultura, sport e spettacolo del comune di Campo Felice di Roccella. Di tutto questo parleremo tra poco, subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Parleremo un po' anche sui giornali, ci sono tre notizie importanti. La prima, c'è stata ieri sera la condanna definitiva, nel senso che il Senato ha dato il via libera a Lusi, che per chi non si ricordasse è stato il tesoriere della Margherita, hanno dato il via libera agli arresti. Lui subito dopo, da un'agenzia che è venuta fuori, mi pare l'agenzia ANSA, ha battuto che Lusi stesso, il senatore Lusi, dopo essere uscito dal Senato, si è recato nel più vicino carcere, insomma, e si è consegnato alle autorità. Quindi per andare a scontare la giusta colpa, secondo molti, ma lì c'è ancora, come dire, un bunga bunga generale, non si capisce cosa c'è dietro Lusi. Lui esclama che non finirà qui, nel senso che avrà delle esternazioni, delle denunce ancora da fare nei confronti di chi evidentemente non poteva non sapere, non facciamo nomi, sta tutta la magistratura poi svolgere le mansioni per la quale è chiamata la stessa, gli stessi togati. Fatta questa premessa do la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria, a rientro dovremmo avere al telefono il neo sindaco di Cefalù, il dottor Lapunzina. Linea alla regia, in diretta dopo la breve pausa pubblicitaria dovremmo avere in diretta radiofonica, come annunciato prima della pausa stessa, il nuovo sindaco di Cefalù, che è il dottor Rosario Lapunzina, che saluto e ringrazio per aver accettato l'invito. Dottor Lapunzina, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ci continuiamo a dare del lei o ci diamo del tu come facciamo sempre quando ci incontriamo, come preferisce? No, ci diamo del tu senza nessun problema. Ti ringrazio, spero di non averti distratto da impegni istituzionali seri, perché tu fai delle cose abbastanza interessanti. Ieri ho avuto il piacere di sentire la tua viva voce, già l'impegno su Momane, la mattina ti alzi su Momane e cominci a controllare tutto quello che c'è da controllare e cominci ad avviare finalmente questa che era una macchina un po' ferma, una Ferrari ferma, che aveva bisogno di uno Schumacher, e tu lo sei in tutti i sensi. Dopo 20 anni di opposizione, una campagna elettorale abbastanza cruda e pende ancora sulle teste un po' questa, come dire, la possibilità che venga inficiata queste elezioni. Facciamo un passo indietro, parliamo di te. Intanto, come oppositore hai fatto tantissimo per Cefalù, sei felice che i cefaludesi abbiano riconosciuto questo tuo status? Sì, sono 10 anni di opposizione, sono 10 anni di opposizione non voluti da me, ma perché l'elettorato in quegli anni, sia nel 2002 sia nel 2007, ha deciso di portarmi all'opposizione in quanto il mio candidato a sindaco ha perso le elezioni. Dopo 10 anni di opposizione io ho lavorato tanto con impegno e la gente ha voluto mettermi alla prova con un risultato elettorale entusiasmante, sul quale il risultato elettorale, come tu dicevi, pende un ricorso da parte di uno dei candidati che avevo già annunciato di non fare ricorso, invece poi ci ha ripensato. E siamo sereni, stiamo lavorando, sto lavorando tutti i giorni, più che controllare, come tu dicevi la mattina, a me interessa la presenza delle istituzioni lì dove il comune deve intervenire, per cui diciamo che è importante che la città, nella città ci sia la presenza, percepisca la presenza del sindaco, ecco, sì, della persona, il sindaco e gli assessori. Stiamo puntando a quella che è il rispetto delle regole, la polizia per quanto riguarda anche avere un aspetto decoroso, certo, di questa città che è bellissima, e poi cercare di recuperare tutti quei luoghi che da tempo sono abbandonati. Dunque abbiamo già illuminato in parte il molo, ma continueremo con altro intervento di un faro, e abbiamo pavimentato l'ultima parte finale del molo, sì, abbiamo recuperato parte diciamo del bastione, ma ora lo illumineremo e cercheremo anche di custodirlo. E nei prossimi giorni si accenderanno i fari alla diga foranea del porto, anche così da poter avere un aspetto più gradevole, ma siamo impegnati anche ad affidare al più presto servizi sulla rocca, a fare partire anche il ticket sulla rocca. A giorni io manderò la proposta in consiglio comunale, e poi a recuperare intere aree che vengono pulite, che vengono valorizzate, come per esempio la pedonale Rocca e come tantissimi altri luoghi che sono state degradate. Ne penso una per tutti, che è la pista di pattinaggio, che è un luogo da tempo abbandonato che dobbiamo riaffidare. Senti, anche la villa comunale dove ci sono dei giochi per bambini in questo momento è sotto nostra attenzione, perché dobbiamo riqualificarla, dobbiamo cercare anche di avere cura e attenzione, perché lì vanno i figli di tante famiglie che cercano anche un po' di svago. No, ma ieri hai detto scusami se ti interrompo, ieri hai detto una cosa interessante: a molti possibilmente sfugge che il cimitero sia un luogo oltre che di culto, oltre che di andare a trovare i propri avi, ed è un momento di aggregazione spirituale tra chi è in questo mondo con l'altro. E hai detto una cosa molto bella: bisogna rimettere a posto tutte le cose che non sono a posto al cimitero, perché lì i nostri concittadini vanno ad incontrare, chiamiamolo lo spirito, ma è, voglio dire, la presenza eterea dei propri cari, ed è giusto che anche lì ci sia un decoro straordinario. Questa la dice lunga sul tuo modus operandi, la Punzine. Sì, io considero il luogo di cui tu hai parlato, cioè il cimitero, un luogo di grande rispetto per coloro i quali non ci sono più, ma anche per coloro i quali con sofferenza vanno a trovare i propri cari, per cui il luogo dove il comune deve avere molta attenzione, deve cercare di curare, di dare anche il servizio di non soltanto alla guardia, ma anche della pulizia, e poi l'assistenza a chi vuole segnalare la lampada votiva fulminata, oppure magari il disservizio che può certo, trovare. Io ieri sono andato a fare un giro al cimitero, ho visto che ci sono gli interventi che dobbiamo fare, recuperare anche qualche zona, e poi pensare subito all'allargamento del cimitero, nelle more dell'individuazione di un'altra area, che questo sarà compito del piano regolatore generale. Noi dobbiamo provvedere immediatamente all'allargare il cimitero per uscire dall'emergenza dell'estumulazione che si è fatta in questi anni, per cui ho chiesto all'ingegnere del comune di occuparsi di questa vicenda insieme all'assessore Salvatore Curcio, che è il vice sindaco, e uno degli obiettivi principali è anche quello dell'allargamento del cimitero. Per noi è troppo importante anche questo luogo, che è un luogo che più volte è dimenticato, perché noi altri dimentichiamo che tanta gente che non vediamo più in giro, che non incontriamo, è gente che ci ha lasciato, ma è gente che bravo sindaco, rispetto alle istituzioni. Questa è sensibilità e vicinanza al cittadino, sul vero senso della parola, servizio al cittadino, questo dovrebbe essere la politica, e mi pare che il sindaco, il neo sindaco Sorella Punzina, presumo con nel tempo ha dimostrato questo attaccamento verso la sua città, voglio dire città che non gli ha dati i natali, perché tu sei originario di Gangi, però voglio dire ami questa città, ci vivi, ci lavori e qui hai creato la tua famiglia. Ci sono dal 1965, quindi mi sento ormai cittadino di Cefalù, anche se originario di un altro comune. Ma adesso sei il primo, quindi voglio dire sì, la dice lunga. Moltissimo questa città e consiglio a tutti i cittadini di salire almeno una volta al mese sulla Rocca, perché soltanto andando sulla Rocca uno si rende conto in quale posto meraviglioso si vive e dove tante volte non ci si rende conto. Non ci si rende conto magari buttando una carta oppure posteggiando la macchina su un marciapiede oppure magari violando qualche regola. Sindaco, ecco, appello ai cittadini tramite Cefalura dei Modenini e tramite CRM e P-Radio, io mi sento di farlo, rispettiamo i luoghi dove viviamo, rispettiamo le regole, aiutiamo i vigili urbani, il sindaco e tutti i cittadini ad avere rispetto del luogo dove si vive ed essere accoglienti e sorridenti per il turista, per chi viene a Cefalù. Mentre ti parlo dalla mia stanza dove sono con un operatore turistico, giovane che sta parlando con me di un problema che riguarda le guide che si occupa di turismo. Ecco, noi abbiamo una missione principale a Cefalù, quella del turismo. Su questo dobbiamo puntare tutto, perché è questo che ci potrà dare. Non mi anticipare. Non mi anticipare le domande. Certo, questo è ovvio, cioè Cefalù è la locomotiva che deve trascinare il volano di partenza, no? del futuro economico anche col turismo, e quindi deve essere il primus inter pares, e quindi essere l'asse trainante dell'economia turistica, a meno per quanto attiene le Madonie. E tu ieri menzionavi, mentre eravamo nella sala delle Capriate per consegnare gli attestati ai ragazzi che hanno fatto il corso di formazione qui in radio con noi, tu sei anche un ex collaboratore, lo possiamo dire, quindi ami anche la nostra emittente, l'emittente Amatei, su questo non ci piove. Desideravo chiederti, tu ieri hai avuto un incontro con i titolari, diciamo così, dei vari alberghi di Cefalù. Quali sono le prospettive in questo momento e quelle per il futuro per far ridecollare quella che era il volano principale di Cefalù, che era il turismo? Ma io confido molto sull'operatività del distretto turistico, che è stato riconosciuto da qualche giorno. Noi forniremo al distretto turistico la sede del Castello Bordonaro, ne facciamo parte, abbiamo il presidente di parte privata che è Angelo Micichè, una delle persone che io stimo, degli albergatori più impegnati, titolare dell'Hotel Caletta e del Club Paradiso. Del Paradiso. Noi ci auguriamo che tutti gli operatori turistici si rendano conto che il Comune vive una grandissima sofferenza appunto economico e finanziario, e che il Comune va aiutato perché è proprio dagli operatori turistici che deve arrivare la spinta anche in questo momento di particolare difficoltà. Noi abbiamo e assicureremo che i servizi che il Comune deve assicurare funzionano al meglio, e puntando moltissimo su quelle che sono, diciamo, come ho detto poco fa, decoro, vivibilità. Il sindaco è impegnato a sostenere tutti quelli che investono a Cefalù, a partire da dare le risposte più celeri possibili nell'ambito di quelle che sono le richieste che gli imprenditori fanno. È una cosa fondamentale. Ascolta, ci salutiamo con l'ultima domanda che ti faccio. Per quanto attiene la cultura, lo spettacolo, lo sport, Cefalù molti anni fa era era all'apice, poi c'è stato un momento di quasi oscuramento. Che la tua amministrazione che tu dirigi in questo momento, cosa sta cercando compatibilmente col bilancio? Sappiamo che ci sono delle difficoltà economiche, l'avevi accennato poc'anzi tu, ma compatibilmente con questo cosa si pensa di fare per quest'estate, soprattutto per chi viene a vivere a Cefalù, per potersi un attimo oltre il mare avere momenti di aggregazione? Le elezioni sono sempre tra aprile e giugno, per cui la stagione che si affronta è quella più difficile, è quella estiva. Certo. Noi siamo impegnati a un cartellone unico che non tenga conto, di tutte le iniziative dal punto di vista culturale, ricreativo, diciamo anche di spettacolo. Un cartellone unico dove ci sarà anche la festa del Santissimo Salvatore, che è il punto centrale aspettato da tutta la città, però un cartellone che possa assicurare motivi di momenti di svago per chi ci viene a trovare e anche momenti di attrazione, fermo restando che senza risorse finanziarie cercheremo di fare il meglio con l'aiuto di tutti e puntando anche alla collaborazione dei commercianti, degli albergatori, nonché delle associazioni locali, ai quali va subito, alle quali l'associazione va subito un nostro grazie per quello che hanno fatto e quello che potremo fare. Avremo il Preview Festival, il Preview Sherbet dal 20 al 22 sì. luglio e poi lo Sherbet Festival che sarà dal 6 al 7 settembre, ma ci saranno anche altre cose che l'amministrazione comunale in questo momento non anticipa perché siamo alla caccia di fondi. Il comune non può fare spese voluttuarie, ma è impegnato a chiedere a quanti potranno, diciamo, dare una collaborazione. Il momento purtroppo lo richiede perché insomma la depressione economica ha causato e poi il patto di stabilità dei comuni non vi consente di risforare più di tanto. Detto questo, caro Rosario, caro sindaco, io ti auguro un buon lavoro fianco a fianco con i tuoi concittadini che so già che ti stimano, ti vedono già all'opera. Speriamo che Cefalù, che tutta la Sicilia, che tutta Italia possa risolversi al più presto possibile, risollevarsi al più presto possibile, ma Cefalù deve risollevarsi perché insieme a lei poi si risolleverebbe tutto quanto l'entroterra delle Madonie. Grazie ancora. A te, Saro. Grazie a voi, ti saluto anche Peppe Bevilacqua che ha atteso qui davanti alla mia scrivania pazientemente. Chiedo scusa per il ritardo. Sì, ma guarda, accetta le tue scuse, però ha sentito questa intervista e io ho voluto ringraziarlo pubblicamente perché non è giusto che un sindaco faccia aspettare ulteriormente recito io il mia culpa, recito io, chiedo scusa all'amico che ci ha ascoltato, spero che resti nel futuro nostro ascoltatore. Intanto a te auguro alla tua giunta un buon lavoro, so che sarà difficile, ma so anche che sarà la punzina. In bocca al lupo. Grazie. Grazie a te e alla tua giunta, buon lavoro. Allora, prima di parlare di sponsor, era il sindaco di Cefalù, il dottor Lapunzina, il quale, come avete sentito, ha risposto su diversi temi, è già operativo per cercare di risolvere le cose che sono risolvibili. Poi c'è un bilancio un po' disastroso, l'avete sentito anche dalla sua voce, non ha parlato di bilancio ma ha parlato di impossibilità di spendere oltre il dovuto e quindi bisogna un po' arrabattarsi con l'aiuto anche delle associazioni locali che sicuramente grazie alla sensibilità che noi italiani in particolare abbiamo nei confronti per l'attaccamento che abbiamo nei confronti dei nostri paesi, siamo molto campanilistici e allora ci rimbocchiamo le maniche. Quello dove non arriva l'istituzione pubblica, sicuramente l'apporto non soltanto economico ma anche tecnico, morale, fattibile, fattivo con le mani, insomma di lavorare proprio fattivamente con le mani, questo non verrà sicuramente a mancare. Ci auguriamo che Cefalù possa rivivere una lunghissima primavera e tantissime estate stupende, perché grazie a quello che succederà qui poi tutto quanto l'Interland insomma ne gioverà sicuramente. Prima di dare la linea alla regia per una breve pausa musicale, volevo ringraziare Medialettere di Badalamenti. Vi do un numero verde 800111341 e il nostro web www.medialettere.it. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di fotovoltaico. Cos'è il fotovoltaico? Sono i pannelli solari che ognuno di noi, chiamando questo numero, può farsi installare previo un preventivo. Dopodiché installiamo questi benedetti pannelli solari, i quali ci decurtano sicuramente la bolletta. Anzi, avete sentito MS Media nei telegiornali ieri sera, c'è l'1,24% di aumento nelle prossime bollette che ci arriveranno a casa e anche il gas va sul 2% circa, per cui è importante abbattere i costi. E come si abbattono i costi? Chiamando l'800111341. Media Elettra, un'azienda leader nel settore, una fattiva collaborazione con l'Enel, quindi abbattete la vostra bolletta installando subito i fotovoltaici, ma non soltanto abbattete il costo della luce sulla vostra bolletta, ma il surplus, cioè quello che voi producete di più, l'Enel ve lo paga e ve lo paga anche bene. Prima di andare ancora avanti, volevo salutare e ringraziare DM2M Porte che arredano, di Mario Marguglio e Vincenzo Allegra. L'esposizione in via Cavour 74, la produzione incontrata a San Calogero a Castelbuono. Chiamate prima per fissare un appuntamento, perché se avete necessità di trovare delle porte di interni, come per esempio le porte in rovere massiccio, lì c'è un bellissimo sconto, 600 euro incluso il montaggio, oppure se volete un laminato ciliegio, oppure il palessandro, oppure le porte fuori misura, beh, dovete prima chiamare per fissarvi un appuntamento, 0921 677012. Dunque vi arredano la casa con la cucina fatta su misura, vi fanno anche le zanzariere se volete, insomma, però per tutto questo, le maniglie, poi c'è un'ampia gamma insomma di scelta, però per tutto questo vi raccomando, chiamate prima Due Porte telefonicamente allo 0921 677012 7012 e poi andate a trovare lo showroom che è in via Cavour 74, così vi rendete conto, oppure incontrate a San Calogero per portare i vostri progetti da sviluppare da parte di 2M. 2M che arredano e naturalmente godetevi la vostra casa. Detto questo, io gradirei che la regia mettesse un po' di musica. Al rientro parleremo ancora al telefono con altri personaggi. Dovrebbe esserci vediamo se la regia chi ci manda prima in onda, dovrebbe esserci o Dario Guarcello, che è il presidente di Paese Divino, Amici per Bacco, e poi Mario Ciccio, l'ex sindaco di Cefalù, che è l'attuale assessore allo sport, cultura e spettacolo del comune di Campo Felice di Roccella. Linea alla regia. I could have been everything that I wanted. E allora sono esattamente le 12:44 minuti in questo momento su CRMP Radio 101.4 per chi si vuole mettere in ascolto in questo momento sulla nostra emittente. Invece potete seguirci anche, vederci televisivamente andando sul sito internet. Allora, stavamo un attimo recuperando alcune informazioni, dicevo di Lusi, dicevo del terremoto, ancora le scosse continuano in Emilia Romagna con questo caldo, tra l'altro, è soffocante nelle tende, non è che si stia granché bene, si sta provvedendo con dei condizionatori, però il caldo torrido colpisce la maggior parte delle persone, appunto come dicevo prima, i più anziani, i bambini più esposti sono loro e i portatori di handicap. C'è stato però anche molta solidarietà, ieri un medico con la sua famiglia è stato accolto in un paese delle Marche, dell'intera comunità che ha messo a disposizione, un medico ha messo a disposizione la propria casa e addirittura il comune gli ha trovato un nuovo lavoro, così questa famiglia si può rifare una vita altrove, sì, lontana dai propri affetti e dai propri avi, però quantomeno si ricomincia a vivere. La speranza è che il governo intervenga il più presto possibile, speriamo che non restino parole buttate al vento come spesso è accaduto, vedi per il Belice, vedi anche per l'Aquila, dove ancora la ricostruzione è ben lontana dall'essere posta in essere. Tra poco ci collegheremo anche per quanto attiene gli stage, vi ricordate, abbiamo l'appuntamento fisso con Trova Lavoro, il principale ente promotore di stage sul territorio nazionale. Oggi invece della dottoressa Verderaimi avremo il vicepresidente dell'associazione, la dottoressa Loredana Titone, con la quale cercheremo di darvi anche ulteriori informazioni circa questi stage, dove potrebbero essere fatti in provincia di Palermo, nelle province siciliane, ma anche fuori dalla Sicilia. Scusate. Allora, dovremmo avere in onda, se mi abbassa la regia, la musica in cuffia, grazie, dovremmo avere in onda l'ex sindaco di Castelbuono, che tantissime volte abbiamo intervistato nella nostra trasmissione, ma è attualmente il nuovo assessore alla cultura, sport e spettacolo, se non erro mi corregga se sbaglio. No, aggiustiamo il tiro. Allora, intanto l'avete buongiorno, già riconosciuto, esatto, Mario buongiorno. Cicero, buongiorno a te, ben arrivato. Grazie. Allora, intanto parliamo molto succintamente come mai, cos'è successo nella politica castelbonese, questa dimisura, questa sconfitta di misura. C'è stato qualche errore da parte vostra? C'è stata una scarsa attenzione su dei problemi? Secondo un tuo giudizio, tu sei una persona molto lungimirante e molto intelligente, cosa è successo? Come mai si sono perse le elezioni? No, noi abbiamo perso le elezioni perché abbiamo fatto degli errori nostri, che sono di valutazione, nel senso di non riuscire a fare sia la lista che nella compagine della giunta di governo, di aprire nei confronti di pezzi di società che normalmente noi abbiamo coinvolta. Io faccio sempre le considerazioni degli anni passati, quando noi abbiamo avuto questa capacità di aprirci alla società in modo più concreto e più reale, abbiamo sempre vinto. L'altro aspetto è che non abbiamo saputo capitalizzare al meglio tutte le cose che abbiamo fatto, tant'è vero che il nuovo sindaco vince di misura, ma è molto ridimensionato nei confronti della sua lista, che prende molto più voti. Senti Mario, se c'è un qualcosa che avresti voluto fare da sindaco e ti è rimasto proprio in gola, ecco, il classico... Io ti sento malissimo, se puoi parlare più forte. No, dicevo, mi senti adesso? Sì. No, allora, ti chiedevo questo, c'è qualcosa in questi 10 anni che avresti voluto realizzare per te, per Castelbuono, più che per te, essendo tu sindaco comunque, e che ti è rimasto invece in gola? C'è qualche sogno che ancora non sei riuscito a fare? La cosa più importante che io ritengo che Castelbuono deve fare è la gestione del traffico e della mobilità. Se si riesce a realizzare questo aspetto e di rendere questo bellissimo centro storico in una grande isola pedonale, ma che sia anche un centro commerciale naturale e culturale, io ritengo che Castelbuono può continuare a confrontarsi con il mondo senza avere paura di confronto con nessuno. Un flash su un argomento che è molto di attualità, Mario, questo benedetto bilancio, insomma, l'avete lasciato attivo, l'avete lasciato passivo, com'è combinato, perché non si capisce? No, ma è drammatico il linguaggio che usa il sindaco che di mestiere fa questo lavoro non può dire i buchi che uno di questi non ne ha. Il buco si intende quando tu hai gonfiato le entrate l'anno prima e poi non ti trovi le risorse. Il comune di Castelvuovo, come tutti i comuni della Sicilia e dell'Italia, ha problemi per fare bilanci, perché i tagli da parte dello Stato e della Regione, certo, le tasse che tu eviti di imitare. Io oggi, in questo momento, ho fatto partire una lettera firmata da parte del sindaco di Campofelice, visto che faccio l'assessore qui, mi muovo qua, per organizzare un incontro giorno 6, anzi vi invito come radio, se volete venire, all'aula consiliare del comune di Campofelice alle 17, dove ci sarà una riunione di tutti i sindaci della zona, e verrà il vicepresidente dell'ANCI regionale, che è il sindaco di Canicattini Bagni, sì, che parleremo del mancato federalismo fiscale che in Sicilia ci penalizzerà in modo drammatico e metterà i comuni in ginocchio non potendo chiudere. Ciò che è buono ha gli stessi problemi degli altri, però non c'è nessun buco, perché l'assessore Fiasconaro oggi, prima l'assessore Castiglia, ma tutte le giunte in questi 10 anni di Castelbuono, compresi i sindaci e gli assessori, hanno avuto l'accortezza di avere di non fare danni nel bilancio del comune. Non l'abbiamo fatto, il bilancio c'è e abbiamo le problematiche di realizzare, di chiudere il bilancio con i trasferimenti e con le tasse. È quello che dicevo anche al sindaco, al tuo ex collega, il neo sindaco di Cefalù, la Punzina, il discorso del patto di stabilità che blocca ulteriormente. Ma lì è diverso, Cefalù è una situazione diversa, lì forse i buchi ci sono realmente e poi ci sono il patto di stabilità. Il problema del patto di stabilità è un dramma, perché ci sono comuni che hanno migliaia di euro o decine di migliaia di euro nei bilanci e non li possono spendere perché questa legge è assurda e li blocca. Questa è una cosa impensabile e non accettabile. Allora Mario, tu da sindaco ti trovi assessore in un altro comune, quello di Campofelice e Locella, che una volta, mi pare, anche se c'era amicizia tra i popoli, ci mancherebbe altro, c'era una forma di antagonismo, no? Chi fa meglio a chi fa peggio. In realtà è cresciuta anche in maniera esponenziale Campofelice, almeno fino a qualche anno fa, con tantissimi cantanti, tantissime manifestazioni. Tu oggi, nello specifico, sei assessore a quale ramo? Allora, io mi occuperò delle politiche sovraccomunali, degli enti con gli altri, dei rapporti con gli altri comuni, e perciò diciamo la politica estera, diciamo, del comune. Sei ministro degli esteri. Ministro degli esteri e poi pianificazione territoriale, perciò urbanistica, lavori pubblici e personale. Bene, è ambiente, perché è il mio pallino. Beh, normale. Cosa porterà? Perché tu sei un pozzo di idee, ti sei inventato tante cose per Castelbuono, ma è il tuo paese nativo, eri sindaco in quel comune, sei stato prima assessore e per 10 anni insomma hai lanciato idee da tutti i pori. Adesso per Campofelice qual è il, come dire, il pallino che lancerai per far sì che questo comune emerga ancora intanto più? Intanto io vi ringrazio per questa opportunità e voglio precisare un aspetto. Io vengo a fare l'assessore qui a Campofelice non perché, come dice qualcuno, mi mancano, cioè voglio fare carriera politica soltanto, perché non si realizza il sogno di un uomo che ha fatto il sindaco nel suo paese di andare a fare l'assessore in un altro comune. Io sono venuto qui a fare l'assessore perché Franco Vasta me l'ha chiesto, perché Franco Vasta, il sindaco, sta lanciando un'idea che è molto bella, che è quella di dare a questo paese un respiro che esce fuori dal circuito territoriale, e la mia presenza, perché mi conosce, chi ha seguito questo aspetto in questi, la mia attività politica in questi anni, sa benissimo che ho fatto il ministro degli esteri delle Madonie e io ci credo molto in questo territorio che cresce tutti insieme. Infatti, scusate, siccome io sto lavorando e penso che da questo ruolo che avrò qui a Campofelice continuerò a fare questo lavoro di dare un'immagine reale, vera e di qualità a quello che fanno le Madonie. Campofelice è una delle porte più importanti. Devo dire, con il coraggio che hanno avuto l'amministrazione comunale di acquistare Torre Roccella, finalmente questa comunità ha una sua identità. Io ho visitato Torre Roccella ed è una cosa splendida, unica, bellissima, e lì, da lì partirà la mia azione. Lì stiamo lavorando già per poter pianificare come utilizzare quella torre, ma come utilizzare anche e come continuare a investire nel borgo, in modo tale che si possa valorizzare tutto il borgo intorno, affinché il nucleo centrale, l'identità di un popolo, parte da questo elemento storico importante che hanno, che diventa di confronto con tutto il resto del mondo, con un vantaggio nei confronti di Castelbuono e di altre realtà, che si affaccia nel mare, ed è una cosa bellissima. Io, quando sarà pronto, quando lo inaugureremo, vi inviterò tutti a venirla a vedere, perché è unica, veramente bella. E già ti immagini che io ho parlato con alcune agenzie matrimoniali, l'agenzia matrimoniale che io conosco, che ho conosciuto in questi anni, che abbiamo lavorato su Castelbuono, e abbiamo preso già contatti con loro per poter fare dei matrimoni a livello internazionale. Dall'altro aspetto io penso di portare in questo territorio, in questo paese, quello che ho fatto in questi anni per le Madonie e per Castelbuono. Allora, puntare sulla qualità ambientale, infatti già siamo attivi, abbiamo fatto una serie di iniziative con Lato Rifiuti per fare accelerare sulla raccolta differenziata, pulire tutta la zona sud della 113, fare in modo che si tolgano tutti i cassonetti dal territorio e si possano fare delle isole ecologiche. Dall'altro aspetto è quello di puntare sulla qualità economica, cioè fare capire agli imprenditori che operano nel settore del turismo, degli alberghi, dei B&B, sì, del commercio, che se vogliamo avere un futuro e confrontarci con tutto quello che avviene nel mondo, dobbiamo puntare sulla qualità. Allora bisogna avere un centro storico vivibile, un arredo urbano degno di questo nome, dobbiamo avere delle proposte turistiche e alberghiere di qualità, dobbiamo puntare a quell'agricoltura di qualità che ha pure Campo Felice, i carciofi, certo, i limoni, certo, le arance, sfruttare, certo, quelle che sono le potenzialità, perfetto, locali. Questo è quello che io penso di poter fare e di poter dare il mio contributo in questo territorio. So di avere una squadra di governo qui insieme al sindaco Vasta, quanto dire, quanto dire, consiglieri comunali molto disponibili e aperti. Questa è una comunità che negli anni è cresciuta in modo esponenziale senza magari aver focalizzato alcune cose. Dopo l'acquisto di Torre Roccella sicuramente questo popolo ha acquisito una sua un valore aggiunto, una storia. Ora bisogna lavorare su questi aspetti. E noi non abbiamo dubbi che Mario Cicero avrà tutte le antenne alzate per poter far decollare ancora di più col suo contributo. Non soltanto, voglio dire, già la giunta comunale con Basta e i suoi collaboratori, gli assessori, sono persone validissime. Campo Felice è un paese, come dicevo prima, che è cresciuto abbastanza, ma l'apporto di una persona che comunque ha sempre creato e ha tirato fuori al cilindro delle idee straordinarie come Mario Cicero non può che far bene a quella comunità. Prima di salutarti, Mario, una domanda, io la chiamo vizioso, un po' di vizio. Senti, trascorsi questi 5 anni della giunta che ha vinto le ultime amministrative a Castelbuono, tu pensi di riproporti? No, no. Allora, io ritengo che sarebbe un errore, come sarebbe stato un errore se io andavo a fare l'assessore a Castelbuono o il vice sindaco a Castelbuono. Io ritengo invece che a Castelbuono la mia parte politica si è finita, si è finito un momento. No, io ho fatto la mia storia, basta. La mia parte politica, la mia coalizione ha uomini e donne, io punto molto sulle donne, che possono sicuramente assumere il ruolo di guida di quella comunità e di continuare a dare l'investimento. Ci auguriamo soltanto che, come auspico, lo auspico da cittadino, da consigliere comunale, da ex sindaco, che noi possiamo continuare a lavorare per sempre di più qualificare non soltanto Castelbuono o Campo Felice, ma le Madonie. Allora, noi possiamo competere nel mondo soltanto se le Madonie sono compatte. Se qualcuno è convinto che può fare da solo, si sbaglia. Da solo non andiamo in nessun posto perché siamo piccole entità. È vero. Allora, le Madonie oggi sono state il fiore all'occhiello della Sicilia nel mondo. Io ritengo che bisogna continuare su questa strada. E sono accettato di venire a fare l'assessore a Campo Felice perché, devo dire con grande soddisfazione mia, c'è stata la sollecitazione di altri colleghi sindaci, di altri componenti della politica sovraccomunale che mi hanno detto: Mario, dacci, vai, continua a dare il tuo contributo. E io lo voglio dare con questo spirito, coinvolgendo tutti, lavorando con tutti, facendo sì che tutte le specificità che le Madonie hanno possano diventare patrimonio non soltanto delle Madonie ma dell'intero sistema Sicilia, che deve sicuramente cambiare rotta se vuole competere nel mercato globale del turismo di qualità. Noi non abbiamo bisogno di eserciti che vengono a salire le nostre spiagge, noi abbiamo bisogno di gente che viene qua. Ad esempio, uno dei motti che porteremo avanti nei prossimi mesi, nelle prossime stagioni su Campo Felice, è quello che la gente non deve venire a Campo Felice per il mare, ma la gente deve venire a Campo Felice perché è piena di cultura, è piena di storia, è la porta delle Madonie. Poi, se vogliono farsi il bagno, si possono fare pure il bagno, ma principalmente devono scoprire le Madonie. Idee sempre chiare, Mario, e poi so che la tua disponibilità non soltanto verso la politica, non soltanto verso il sociale, ma verso il personale è sempre stato il tuo cavallo di battaglia. Rimani sempre così perché sei nel cuore di tutti. Grazie, sei un grazie. Grande amico, sei una persona simpaticissima, grazie. Sei anche, come dire, una persona camaleontica, per cui vai sfruttato in questo senso. Saluta l'amico Basta e auguro a tutti quanti voi un felice estate e un buon lavoro. lavoro, buon lavoro davvero. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Io per il giorno 6 diglielo Arduino se vuole venire, perché ti sta ascoltando. Sarà importantissimo questo incontro con tutti i sindaci, dove parliamo di federalismo fiscale mancato in Sicilia. È una cosa vergognosa. Da Reggio Calabria in su i comuni possono recuperare già sull'IVA, possono recuperare sull'IRPEF. Da Reggio Calabria in giù, in questa terra di Sicilia, lo Stato ancora non ha chiuso l'accordo sul federalismo fiscale e saremo penalizzati. Si parla di tagli del 40% nei bilanci. E non sarebbe male. Mario, io ti saluto e ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie al sindaco per averti concesso questa possibilità. E cosa dirti? In bocca al lupo, buon lavoro, ci vedremo in giro. Grazie. Buon lavoro, buona estate a voi. Ciao. In diretta sono le 13:02 in questo momento. Ci avviciniamo alla fase conclusiva di questa ennesima puntata di Carta e Penna, che vi ricordo va in onda ogni giovedì in diretta e poi in differita invece domenica dalle 9:30. Potete comunque andare su www.crmpradio.it, cliccare su programmi, andate su repliche podcast e lì potete riascoltare tutte quante le puntate di Carta e Penna, ma anche le puntate dell'intero palinsesto di CRM Happy Radio. 101.4 invece la modulazione di frequenza per chi viaggiasse o per chi sta lavorando in questo momento nei propri uffici e quindi anche a fare il parrucchiere. Anzi, saluto Mariuccio, un grosso abbraccio, ma un abbraccio a tutti quanti i parrucchieri, la categoria, anche i barbieri, insomma gli impiegati comunali, coloro i quali sono chiusi negli uffici a lavorare, ma nel contempo ci ascoltano anche nei negozi, perché non le commesse, ma anche i titolari dei negozi stessi. Capita spesso che io passando li saluto e dice: guarda, abbiamo ascoltato. Beh, insomma, questa cosa ci fa molto molto piacere. Dovremmo avere adesso tra pochi minuti dovremmo avere in onda Trovo Lavoro, che è un'agenzia di levatura nazionale con una filiale aperta a Palermo, inaugurata qualche settimana fa. La dottoressa Titone, la vicepresidente in questo momento, che dovrebbe ragguagliare su quelli che sono i nuovi stage che si faranno quella tra la Sicilia e il resto dell'Italia. Dottoressa Titone, buongiorno. Pronto? Mi sente? Adesso la sento benissimo. Intanto buongiorno a lei, grazie per aver accettato l'invito. Oggi cambiamo, non è la presidente di lei, ma comunque la dottoressa Titone ha le competenze per poter parlare tranquillamente ed eludirci su quelli che sono i futuri stage che si faranno in Sicilia e non soltanto. Prego, dottoressa. Allora, intanto facciamo così una panoramica sull'Italia. Prego. L'azienda, per esempio, SAI SRL, con la sede a Roma, nel settore servizi, sta cercando uno stagiaire con una laurea specialistica in economia aziendale ed è previsto un rimborso spese. Poi abbiamo anche uno stage su Milano, nel settore commercio. L'area di inserimento è quella del personale e organizzazione ed è richiesta una laurea specialistica in lingue e letterature straniere, anche qui è previsto un rimborso spese. Un'altra offerta sempre su Milano, Eurooffice, settore commercio, l'area di inserimento questa volta è il marketing, è richiesta una laurea in lettere ed è previsto un rimborso spese. Invece, spostandoci sulla Sicilia, abbiamo una società di promozione dei servizi legati al turismo, sta cercando uno stagiaire per un periodo di 4 mesi ed è richiesta la buona conoscenza della lingua inglese. È previsto un rimborso spese. Poi abbiamo 2 alberghi. Che cercano degli addetti al ricevimento, uno su San Vito Lo Capo e uno di Trapani, in provincia di Trapani, sì, e l'altro invece su Catania città. La durata per entrambi è di 4 mesi, sì, ed è previsto un rimborso spese. Anche qui, come requisito indispensabile, è la conoscenza richiesta della lingua inglese. Comunque tutti i nostri stage, per cercarli e trovarli e candidarsi, possono essere trovati sul sito www.sportellostage.it. Quindi questi sono solo alcuni che abbiamo in questo momento, ma sul nostro sito ne troveremo naturalmente molti altri. Allora, dottoressa Titone, è partita qualche settimana fa con l'inaugurazione questa filiale di Palermo, sì, e abbiamo già raggiunto sicuramente, conoscendo lei, conoscendo la dottoressa Verderheim, insomma il vostro modus operandi, avete già raggiunto alcuni obiettivi? sì, abbiamo raggiunto degli obiettivi e ne siamo molto, molto contenti. Abbiamo capito che risponde, il territorio siciliano risponde bene a questa richiesta di stage, di inserimento di stagiaire, e soprattutto in questo periodo le aziende si stanno focalizzando, sono le aziende del settore turismo, ecco, beh, che si stanno, certo, che stanno effettuando delle ricerche e degli inserimenti naturalmente. Dottoressa Titone, se non ha altro da aggiungere, è stata stupenda e come sempre esaustiva, perché insomma la preparazione nel campo c'è e si sente. Se non ha altro da aggiungere, No, ricordare il nostro sito. Prego. www.sportellostage.it. Perfetto, allora io intanto le auguro buon weekend, perché grazie, siamo giovedì, quindi soltanto domani mi pare che sia il giorno lavorativo, poi sabato e domenica, se il tempo lo consente ancora, questo bollino rosso di 40 passa gradi al nord e anche al centro, ma in Sicilia siamo intorno ai 40 gradi pure, di andare a farci un bel bagno, quindi le auguro buon divertimento. Grazie anche a voi. Grazie a lei dottoressa Titone, al suo stage, tante cose di sentirla. Buona giornata. Allora, era Trova Lavoro, Sportello Stage con di Palermo in questo caso, che ci eludiva su quelle che sono le future possibilità di chi volesse fare degli stage con rimborso spese, come ho sentito, Milano, ma anche Catania e Trapani. E l'abbiamo salutato dottoressa Titone, abbiamo augurato anche buon weekend a lei. Prima di passare all'ultima telefonata, dovrebbe esserci, se non è andato già via, Dario Guarcello, visto che sono le 13.10 in questo momento, siamo rigorosamente in diretta. Volevo ringraziare Bergi di Antonio Castiglia, così azienda zootecnica, latte fresco, formaggi e yogurt. Latte fresco perché avete la possibilità di vederlo mungere, di vederlo pastorizzato e di vederlo mettere in bottiglia, pensate che bellezza. È foraggio straordinariamente malonita, per cui il latte ha un gusto veramente straordinario, rigorosamente intero il latte, attenzione. Poi abbiamo gli yogurt con una vasta gamma di scelta, dallo yogurt bianco andiamo a quello ai frutti di bosco, alla banana e anche alla fragola. Quindi Latte Bergi, azienda zootecnica, lo trovate dunque a Castelbuono, sulla strada che va per Giralcisicolo, 50 metri più avanti sulla destra, passando Bergi, che è l'azienda invece agroturistica. Un altro saluto particolare lo devo dare a Clima Ideale di Bruno Sergi, centro assistenza caldaie firmate Bosch, centro assistenza della ELM Leblanc, sistema depurazione acque gel, acque per bere, depurazione naturalmente automatica, pannelli solari, acqua calda a circolazione forzata o a circolazione naturale della Jenkern Bosch. Il sito www.ilclimaideale.com, telefono 0921 426 767. Poi le caldaie con le biomasse della Tatano, è una firma straordinaria. Clima Ideale di Bruno Sergi lo trovate invece a Finale di Pollina, appunto a Finale di Pollina. Ci doveva essere ancora un'altra telefonata, se la regia mi dà conferma, se no ci salutiamo qui. Mi sa tanto che ci salutiamo qui. Allora bisogna ringraziare anche la gioielleria Zaffiro di Giuseppe Zaffiro, via Umberto 9, per le firme prestigiose che ha all'interno della sua gioielleria, come Miluna, Risental, per quanto attiene per esempio l'outlet, e con lo sconto del 50%, l'outlet è quella vetrina che trovate di fronte prima di entrare all'interno della gioielleria, e poi hai delle sfumature particolari anche per quanto attiene gli orologi, sono delle firme come Tissot, ma sono delle firme veramente prestigiosissime. A parte la gioielleria, Zaffiro ha anche ceramiche, che è firmata Gerbino Armao, sita incontrata Torrazza sulla statale 113, dunque vasellame di terracotta, tutto rigorosamente realizzato a mano, anche su richiesta. Poi la cooperativa agricola, dove andate a mangiare il cinghiale dei Nebrodi, il suino dei Nebrodi che è quello nero, e i salumi di Sant'Angelo di Brolo, con tutte le altre accortezze e le corne agroalimentari che in quel sito potete trovare. I dulcis in fondo per andare a dormire, bed and breakfast a Porta Palermo, con tutto questo lo trovate a Santo Stefano di Camastra in provincia di Messina. Dovremmo sentire adesso il presidente di Amici per Bacco, Dario Guarcello, se è in linea, se no chiudiamo la trasmissione, perché siamo già alle 13.10 minuti in questo momento. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare un sindaco nuovo e un ex sindaco su quelle che sono le tematiche che oggi i comuni devono affrontare, il patto di stabilità, il bilancio con buchi o senza buchi, insomma tipo formaggio svizzero, però insomma la realtà storica in cui stiamo vivendo in questo momento, un grandissimo margine di disoccupazione soprattutto tra i giovani, ecco perché diamo la possibilità tramite Sportello Stage di informare i medesimi giovani su dove possono fare degli stage anche. D'accordo, e allora dicevo, abbiamo avuto uno spaccato di quelle che sono le difficoltà dei comuni, degli enti locali, ma abbiamo avuto anche uno spaccato di come gli amministratori, di come noi siciliani cerchiamo di rabbattarci e di stravolgere quelli che sono i problemi e metterli in positivo. L'avete sentito la viva voce di Mario Cicero, che è il nuovo assessore a Campo Felice di Roccella. A tutte le amministrazioni delle Madonie, che siamo qui che trasmettiamo, ma in tutte quelle italiane, perché siamo anche su internet e quindi ci vedono anche al di fuori e al di dentro dell'Italia, dobbiamo augurare che i sindaci abbiano tutti quanti un buon senso, che gli amministratori amministrino con parsimonia, con oculatezza e soprattutto che scendano tra la gente a sentire i problemi della gente e, ove fosse possibile, dare una mano, perché sinceramente oggi c'è bisogno di tanto tanto tanto aiuto, soprattutto quello morale. Da parte di Filippo Grosso io chiuderei qui questa ennesima puntata di Carta e Penna, ringraziandovi tutti quanti voi, anche gli ospiti, per la partecipazione a questa puntata. Vi do l'appuntamento per domenica subito dopo le 9:30 di mattina per la replica, ma o se no andate sul sito e andate sui programmi, cercate repliche podcast e lì troverete la puntata di oggi. Grazie ancora a tutti quanti voi, buon weekend e buon bagno a tutti. Da parte di Filippo Grosso un bacio, ciao. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di